cose cambiano per arrivare a un dunque. C'è Braille Jordan e pure il cappellino. Per me è Piancor la spesa della Lidl. C'è il frigo mezzo vuoto che adesso è l'imperativo. Partito da Tarvisio, chilometri nel casino. Ho perso il treno giusto, sì l'ho capito, ma il binario è sempre quello e l'arrivo quasi vicino. Che mentre giri quel caffè c'è il citofono che bussa, la bronza che cade, un buco sulla poltrona, con la padrona che ti scassa per l'affitto, metà dei soldi spesi per andare in coma, una stronza colossale che dia gippo. Cos'è che mo strippo, che va avanti a post scrittum? L'amore farà pezzi Joy Division, fratello l'ho già visto. Cosa succede all'improvviso? Un boom di posti, di droghe, di persone, mille facce conosciute in festa ma non so il tuo nome. Con la valigia di cartone in stazione all'ombra dell'ultimo sole, mica un pescatore, come D'Andre non farci un nome. Racconta i fatti, sputtano il suo padrone, le sue paranoie e misfatti. Manda a fanculo il manichino, la sua giacca e la sua 24 ore. Non mi daresti del signore, ma lo sono, stai tranquillo. Meglio di loro che appena possono fanno uno squillo alla prima stronza che li gira a tiro. Che se la picchiano sicuro c'ha l'amico sbirro che gli para il culo perché è amico dell'amico. Chi invece penna canna, avvocato d'ufficio, patente ritirata, chillum sul comodino, contando poi gli sfici per l'aperitivo. Sì, te stesso, sempre e comunque. Le cose cambiano per arrivare a un dunque. C'è Braille Jordan e pure il cappellino. Per me è Piancor la spesa della Lidl. C'è il frigo mezzo vuoto che adesso è l'imperativo. Partito da Tarvisio, chilometri nel casino. Ho perso il treno giusto, sì l'ho capito, ma il binario è sempre quello e l'arrivo quasi vicino. Scusa, ma di che parli? Con San Petrini che ci canti, qua non ci campi, meglio che ci lasci. Tornatene a casa come Ciampi, col Vasco la bandana fai felici a tutti quanti. Io questa vita me la vivo tutta in forza, schiacciato da un lavoro per finire come un poster, senza risposte né certezze nelle tasche. Asfalto sotto i piedi brucia come le mie casse. Che se tutto poi va a farsi fottere e posarsi, che il maresciallo scriva che noi siamo dei bastardi. Cresciuto a botte con i calli dei divorzi, in mezzo ai black block per andare ai block party. Mo' jamming come diceva Bob Marley, ma senza la Giamaica di fretta come suonarle. Scappando da qualcosa di impreciso, da Tarvisio sul fondo del bicchiere, la zingara e le gel da far. Un futuro incerto, un muto stretto, al cappio del quadrato in cui mi sono perso. Fuori da ogni lato, se mi è inquadrato con un video non credo. Sputando storie su un grilletto, spara lo stereo. Sì, te stesso, sempre e comunque. Le cose cambiano per arrivare a un dunque. C'è Braille Jordan e pure il cappellino. Per me è Piancor la spesa della Lidl. C'è il frigo mezzo vuoto che adesso è l'imperativo. Partito da Tarvisio, chilometri nel casino. Ho perso il treno giusto, sì l'ho capito, ma il